Le 13 in punto. GR24, il sole 24 ore. Maggioranza divisa su decreto rifiuti e arresto dell'onorevole Papa. Milano, Penati indagato per corruzione. Caso Murdoch è il giorno del primo ministro britannico Cameron. Catturato il serbo croato Azic. Buona giornata dalla redazione da Rita D'Ambrosio. In apertura la politica con il governo sul decreto rifiuti in Campania, battuto due volte. Ci racconta tutto in diretta Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Decisione dell'Aula di pochi istanti fa, il decreto sui rifiuti è stato rimandato nella commissione competente, mettendo di fatto il provvedimento su un binario morto. La svolta è stata preceduta da una mattinata di tensioni in Aula, lunghi interventi e votazioni sulle mozioni. L'impasse è figlio delle divisioni all'interno della maggioranza, con la Lega contraria al decreto che prevede, lo ricordiamo, che l'emergenza rifiuti del napoletano venga risolta coinvolgendo le altre regioni. Ipotesi questa bocciata da sempre dal Carroccio. Da segnalare il braccio di ferro in Aula all'interno dello stesso PDL, il capogruppo Cicchitto si è più volte recato al banco del governo a parlare con il ministro Prestigiacomo, che in precedenza aveva dato parere favorevole a mozioni del centro-sinistra contro la volontà del resto dell'esecutivo e del proprio gruppo. Decisamente critica all'opposizione, qualcuno dovrebbe informare il ministro Prestigiacomo, ha attaccato dal PD Franceschini che la maggioranza sta votando contro i suoi pareri sulle mozioni in materia di rifiuti per avere il voto della Lega su Papa. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo, dunque l'avete sentito proprio in diretta, grazie per questo aggiornamento con il ritiro del decreto sui rifiuti sul quale il governo era stato battuto due volte. Anche la richiesta di arresto del deputato PDL Alfonso Papa divide intanto la maggioranza e il governo. In diretta Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno, il PDL voterà no all'arresto di Alfonso Papa, l'orientamento del gruppo leghista è quello di votare sì, ma il partito lascerà libertà di coscienza, uno spiraglio per la maggioranza dopo la seduta del gruppo ieri qui a Montecitorio presieduta dallo stesso Umberto Bossi. A favore dell'arresto tutte le opposizioni, l'aula si pronuncerà alle 16, probabilmente Domenico Scilipoti a nome dei responsabili chiederà il voto segreto, una misura auspicata dal PDL anche per accaparrare i voti di qualche francotiratore, magari tra i centristi. Slitta invece alla settimana prossima l'esame della richiesta di arresto di Marco Milanese davanti alla Giunta per le autorizzazioni della Camera. Il relatore del PDL Fabio Gava ha chiesto tempo per approfondire il fascicolo, comprese le richieste di utilizzo dei tabulati delle utenze telefoniche del deputato e di apertura di alcune cassette di sicurezza. L'opposizione contesta e avrebbe voluto il voto delle due richieste, anche dopo la posizione favorevole all'apertura espressa dallo stesso Milanese. Diverso il caso in Senato del senatore del Partito Democratico Alberto Tedesco, indagato per lo scandalo della sanità in Puglia e già sospeso dal partito. Nessuno scambio con Papa, avverte il capogruppo Anna Finocchiaro, il Partito Democratico voterà a favore degli arresti domiciliari. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta, da Roma ci spostiamo a Milano per parlare di tangenti. Indagato Filippo Penati, esponente di spicco del Partito Democratico, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia. Le accuse sono a vario titolo di corruzione, concussione e finanziamento illecito ai partiti. Punta sulla riqualificazione urbanistica dell'ex area FALC di Sesto San Giovanni, l'inchiesta della Procura di Monza che coinvolge una quindicina di persone, tra cui Filippo Penati, esponente di spicco del Partito Democratico, fino a poco tempo fa nella segreteria nazionale, ex presidente della provincia di Milano, attuale vicepresidente del Consiglio regionale lombardo, un assessore del comune di Sesto San Giovanni e alcuni imprenditori. 7 le perquisizioni disposte dai PM Franca Macchia e Walter Mapelli, eseguite questa mattina dalla Guardia di Finanza negli uffici milanesi del Consiglio regionale della Lombardia, in quelli del comune di Sesto San Giovanni e in alcune società e abitazioni. Secondo l'accusa, tra il 2001 e il 2002 Penati è stato sindaco del comune alle porte di Milano dal 94 al 2001, sarebbero state corrisposte o promesse somme di denaro, si parla di tangenti per 4 miliardi delle vecchie lire, per agevolare agevolare il rilascio di alcune concessioni o per condizionare il piano di governo del territorio di Sesto. L'inchiesta nasce da un filone del fascicolo aperto a Milano su un'altra area oggetto di un grosso intervento urbanistico poi finito nella tempesta, l'area Santa Giulia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E proprio poco fa la Sesto Immobiliare, società proprietaria dell'ex area Falca, ha reso noto di aver rinnovato il consiglio di amministrazione con la nomina come presidente di Piero Gnudi, di Mario Resca come vicepresidente. Lo annuncia una nota della società in cui viene confermato Davide Bizzi, amministratore delegato. Adesso diamo uno sguardo alle borse con la nostra Deborah Rosciani. C'è un vero e proprio sprint in questo momento tra i mercati del vecchio continente, che erano già partiti bene questa mattina consolidando i progressi di ieri dopo il lunedì nero delle borse europee, e questo sprint riguarda in questo momento proprio Piazza Affari, che sta guadagnando oltre il 2% sulle FTSE MIB. Parigi più 1,42%, Francoforte molto più tranquilla e più prudente, guadagna lo 0,37%, Londra in rialzo di un punto. Stanno beneficiando i mercati europei questa mattina delle trimestrali che sono state diffuse in particolar modo dagli Stati Uniti. Sembra essere stata apprezzata quella di Apple, che sta registrando un guadagno del 4% sulla borsa tedesca. A Milano invece sta continuando il riscatto dei titoli bancari, in questo momento guidati dalla Popolare di Milano, più 4,70%. Il gruppo stamattina ha presentato il piano industriale al 2015. Il gruppo ha fatto sapere di non avere alcuna esposizione ai paesi periferici dell'Eurozona. Fiat più 4,38%, la Galassia promossa dagli analisti di Goldman Sachs. Unicredit più 4,38%, Intesa San Paolo più 4,40%. Questa è un po' la situazione in questo momento. L'euro sul dollaro a 1,42,19. Attendiamo oggi altre trimestrali dagli Stati Uniti. Conosceremo in particolar modo i dati di American Express e altri gruppi più tardi. Grazie a Deborah Rosciani. Ora riflettori sul caso Murdoch. Sta parlando il primo ministro David Cameron in diretta. Gigi Donelli. There is the question whether everyone, the media, the police, politicians is taking responsibility. Ecco dunque, parla dei media, della polizia, parla della politica. David Cameron, che in questo istante continua a parlare, anzi a replicare, perché dopo i primi 15 minuti di intervento è stato il tempo di dare la parola a Ed Miliband, il capo dell'opposizione. Alcuni passaggi chiavi di un intervento appunto di 15 minuti molto denso. Per la prima volta Cameron ha ammesso che scegliere Andy Coulson come portavoce non è stata una buona, forse ha detto, una buona idea. Ripensandoci ha detto: mi dispiace il furore che ha provocato la sua nomina. D'altra parte ha ribadito dicendo: io sono della vecchia scuola, ritengo che le persone siano innocenti fino a indicazione contraria. Insomma, a Cameron naturalmente ha raccontato la sua versione di questa grande crisi, ha invitato le istituzioni a raccogliersi, a unirsi per affrontare quello che invece l'opinione pubblica si aspetta, cioè una ondata di chiarezza e di polizia che investa senz'altro la polizia, la politica, ma anche la cultura dei media. In questo senso ha annunciato la costituzione di una commissione indipendente che lavorerà perché appunto questo si realizzi nelle settimane a venire. Per ora è tutto, a te la linea. Grazie a Gigi Donelli. Ancora dall'estero, Goran Azic, l'ultimo criminale di guerra serbo ancora latitante, è stato arrestato e accusato di genocidio e crimini contro l'umanità per le atrocità commesse durante la guerra fra Serbia e Croazia del 1991-1995. 20 luglio 2001 Genova si trasformava in un campo di battaglia, le violenze culminarono nella morte di Carlo Giuliani. 20 luglio 2001, 10 anni fa. I potenti della Terra sono riuniti a Genova, ma il mondo guarda quello che accade lontano dal G8, per le strade di una città svuotata dalla paura e incendiata dagli scontri. In piazza Alimonda, un fuoristrada dei carabinieri è assalito dai manifestanti e uno dei militari spara. Carlo Giuliani, 23 anni, genovese, muore sul colpo. Seguiranno altre ore e un altro giorno di guerriglia, centinaia di feriti, negozi devastati, falò di auto, danni ingentissimi. E poi il blitz alla scuola Diaz occupata dai No Global, con gli arresti illegali, i falsi verbali, gli abusi e ancora le violenze nella caserma di Bolzaneto. Negli anni si sono susseguiti i processi, sul banco degli imputati anche i vertici della polizia, sentenze contraddittorie, ora si attende il pronunciamento della Cassazione. 10 anni dopo, a Genova, la memoria di quei giorni si aggroviglia nell'ansia di nuove possibili violenze. violenze. Il calendario delle iniziative organizzate dai movimenti è denso: presidi, fiacolate, dibattiti, mostre e un corteo sabato pomeriggio. La questura teme infiltrazioni da parte di anarchici e black bloc. Da oggi la città è blindata. Posti di controllo in tutti i quartieri, contingenti di polizia e carabinieri di rinforzo da altre città. Genova, con il fiato sospeso e le cicatrici mai rimarginate, attende inquieta. Andrea Ferro, Radio 24, Sole 24 Ore, Genova. Questa mattina nel carcere di Marino del Tronto l'interrogatorio di garanzia di Salvatore Parolisi, il militare accusato dell'omicidio della moglie Melania Rea. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere perché, dicono i suoi legali, ora l'indagine passerà a Teramo e il GIP di Ascoli non è più il suo giudice naturale. L'avvocato di Parolisi, Nicodemo Gentile, respinge la ricostruzione dell'omicidio fatta dalla procura. L'ordinanza è fondata sulla ricostruzione dell'accusa, sugli elementi raccolti dal PM, sulla consulenza dei periti del PM che non convince per quanto riguarda soprattutto i tempi complessivi dell'azione omicidiaria, per quanto riguarda il contegno avuto da Salvatore Parolisi, perché si tratta di un'ordinanza che ha fatto una lettura unilaterale. La dinamica non è precisata, si parla di una dinamica che parte dalla premeditazione, che poi invece può finire in un litigio, una dinamica che addirittura in alcuni momenti vede addirittura delle effusioni tra Salvatore e la povera Melania. L'unica cosa certa per la procura è che Salvatore, indipendentemente da quello che è successo, era lì e lui il responsabile. Mi sembra una ricostruzione babar più che una ricostruzione fatta con le regole del codice di procedura penale. Torniamo a parlare di rifiuti. Vi ricordo la notizia di apertura: la Camera ha dato il via libera al rinvio del decreto legge sui rifiuti in commissione. Intanto perquisizioni in tutta Italia oggi e due misure di custodia cautelare nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti per i rifiuti. Giovanni Faggiano e Corrado Cigliano, rispettivamente ex amministratore delegato ed ex dirigente di Ener Ambiente, società appaltatrice della raccolta rifiuti a Napoli, sono stati arrestati. Tutto nasce da un'indagine dopo che nel settembre 2010 alcuni appartenenti a cooperative sociali devastano 52 automezzi della società. A gennaio vengono arrestate 6 persone, tra cui Salvatore Fiorito, presidente della cooperativa sociale Davide Co, il quale rivela l'esistenza di un sistema per pilotare appalti e assunzioni, anche in cambio di denaro, nelle gare bandite dalla SIA, la municipalizzata napoletana titolare della raccolta rifiuti. Ad aprile finiscono in carcere il fratello di Cigliano, Davide, consigliere provinciale del PDL, il padre Antonio e un loro uomo di fiducia. Il motivo? Avrebbero pagato la moglie di Fiorito perché ritrattasse le dichiarazioni rese agli inquirenti. Oggi sono scattate di nuovo le manette. Faggiano e Cigliano, secondo gli inquirenti, chiedevano tangenti ad altre ditte in cambio di subappalti e passavano parte del denaro a funzionari della SIA. L'accusa ora è estorsione e corruzione. Giacomo Segantini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Porto Empedocle in chiusura, sia al ricorso dell'Enel, il rigassificatore si potrà costruire. Ribalta la sentenza del TAR del Lazio, la pronuncia con la quale oggi il Consiglio di Stato ha dato ragione all'Enel, sbloccando di fatto i lavori per la realizzazione del rigassificatore di Porto Empedocle. In un primo tempo i giudici amministrativi avevano accolto il ricorso presentato dal vicino comune di Agrigento, Lega Ambiente e altre associazioni che avevano chiesto e ottenuto il blocco della costruzione dell'impianto e dei gasdotti di collegamento. Ora arriva il controordine e il via libera ad un investimento da 800 milioni di euro. Il rigassificatore avrà una capacità di 8 miliardi di metri cubi l'anno, pari al 10% del fabbisogno nazionale. I lavori per la sua realizzazione dureranno 4 anni e mezzo e daranno lavoro ad oltre 800 persone, mentre altre 120 sarebbero quelle impiegate per mantenere in esercizio l'impianto, ritenuto strategico non solo dalla Confindustria siciliana, ma anche dalla CISL, che avevano per questo auspicato lo sblocco dei lavori. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È tutto per questa edizione curata da Daniele Biacchese. Il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.